Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Olga, questo è Radio Città Fujiko e siete su Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Siamo in vigilia del giorno della memoria, il 27 gennaio, siamo al 25 sabato e come ben sapete gli storici e le storiche sono in fibrillazione. La televisione, la radio, tutti parlano del giorno della memoria, come sempre, come da ormai quasi 20 anni, e noi cerchiamo di farlo ogni anno in maniera, speriamo, leggermente diversa, cercando andando a cercare una storia che non sia la solita ipertrofia della memoria, di solo questa... non andando a cercare l'emotività, ma andando a cercare la storia e la memoria. L'anno scorso abbiamo parlato delle leggi razziali con Valeria Galimi, e vi invito, se non l'avete ancora fatto dopo un anno, a ritornare su www.radiovalun.info per riascoltare questo podcast. E quest'anno siamo andati a scovare veramente un bellissimo libro, una ricerca molto interessante che mette in luce una zona d'ombra della Seconda Guerra Mondiale e della deportazione. Abbiamo scoperto in questi ultimi anni, ma come poi ci dirà bene il nostro ospite, anche la storiografia non ne parla molto, o meglio, ne ha cominciato a parlare solo negli ultimi 20 anni, perché parliamo dei campi di concentramento fascisti. In Italia tra il 40 e il 43 ci sono stati campi di concentramento fascisti, erano circa 50, campi di concentramento che non significava per forza di sterminio, sono varie possibilità, chiamiamole così, nella geografia del terrore. Campi di concentramento fascisti che erano sparsi in tutta Italia, specialmente nel centro-sud e in particolare in Abruzzo. Su questi 49 campi di concentramento, 19 erano in Abruzzo. Perché? Perché è una regione impervia, perché è lontana dalle vie di comunicazione e prima, tra il 38 e il 39, esperti, ecco, tra virgolette, di quelle che adesso si chiamano location, vanno a scovare dei posti impervi per i campi di concentramento. Chi sono, chi c'è dentro questi campi? Politici, prigionieri politici, ebrei, soprattutto ebrei stranieri, che con le leggi razziali dopo il 1938 e con l'inizio della guerra avrebbero dovuto lasciare il suolo italiano nel quale si erano rifugiati. Noi parliamo oggi con Giuseppe Lorentini, che ha fatto un lavoro straordinario, è andato nell'archivio comunale di Casoli. Casoli è un piccolo paese alle falde della Maiella, in provincia di Chieti, e ha riscoperto proprio dentro l'archivio la storia del campo di concentramento di Casoli. Tutta questa ricerca, durata un paio d'anni, è contenuta nel suo libro, che si chiama L'ozio coatto, storia sociale del campo di concentramento fascista di Casoli 1940-1944, edito da Ombrecorte nel 2019. Noi ci facciamo una pausa in musica e poi diamo la parola a Giuseppe Lorentini. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, four hands and then away. Both under influence, we had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade, to call for hands of above. Start a simple touch, one night to push and scream, and then relief, 10 days of perfect. call for lights all above to lean on. Offer our hands of love to lean on. Wouldn't be good enough. And you knew the hand of the devil. And you kept us awake with false teeth, sharing different hearts. Offer our hands of above to lean on. Would it be good enough for me now to call for our hands of above? Bentornate e bentornati su Vallun, la vostra mezz'ora di storia su Radio Città Fucico. Si avvicina il giorno della memoria e noi siamo con Giuseppe Lorentini, che ha scritto per Ombre Corte L'ozio coatto, storia sociale del campo di concentramento fascista di Casoli, 1940-1944. Giuseppe, grazie per essere con noi. Grazie a te Olga e grazie a voi per questo invito. Senti, io non vorrei perdere tempo perché le domande sul libro sono tantissime. Molti ascoltatori si chiederanno dov'è Casoli, ve lo dico già, ed è in Abruzzo. E poi Giuseppe ci racconta qualcosa. Ma prima di arrivare al nostro caso di studio di Casoli, ci racconti, perché è una storia che secondo me l'opinione pubblica, le persone non sanno molto, ma anche io non sapevo molto, non so ancora molto prima di leggere il tuo libro. Il sottotitolo è Campo di concentramento fascista, quindi un campo di concentramento che è in Italia, suppongo. Ci spieghi che cos'è? Allora, hai detto bene, non è soltanto un problema, diciamo, tuo, di aver scoperto soltanto di recente questa storia, ma è un problema che abbiamo avuto noi come Paese Italia, perché è soltanto da pochissimi anni che viene affrontato in maniera storica, prima di tutto, quindi in maniera scientifica e storiografica, il tema dei campi di concentramento appunto fascisti, ossia quelli istituiti durante il fascismo, dal regime fascista, in modo particolare a partire dal 1940 fino al 1943. Infatti uno dei più grandi e più importanti studi che sono stati fatti su questo tema è quello del risale al 2004, che è il libro che ha un titolo molto, molto accattivante e che comunque spiega molto bene di cosa si tratta, che è il libro I campi del Duce di Carlo Spartaco Capogreco, che è stato appunto pubblicato nel 2004 dall'editore Einaudi, ed è appunto in questo libro si ripercorre l'istituzione dell'internamento civile fascista e la mappatura completa che Capogreco ha fatto durante i suoi 20 anni di ricerca su tutta la penisola italiana, arrivando a mappare appunto 48 campi, e Casoli era uno di questi campi, che è un piccolo campo che si trova nella cittadina di Casoli, un comune della provincia di Chieti di 6.000 abitanti. E come Casoli è un esempio particolare perché, a differenza di tanti altri campi, ha conservato presso l'archivio storico comunale del comune i fascicoli personali degli internati, e quindi il mio lavoro di ricerca appunto si basa sull'analisi e la riscoperta di questa documentazione che per molti anni è rimasta nell'oblio. Ecco, ti interrompo per chiederti un'altra cosa sui campi di concentramento. Allora, tu ci hai detto che sono in tutta Italia, sì. Molti sono in Abruzzo, quindi 19 su 48, quindi sono però... L'Abruzzo è la regione che ne ha di più, che ne ha avuti di più. E sono sparsi in tutto il territorio italiano, immagino. Sì, in modo particolare nel centro-sud dell'Italia, proprio perché lontano dal nord, dagli obiettivi, lontano dai centri abitati, dalle città, dalle grandi città, diciamo nelle periferie, nelle zone più impervie. Come lo è l'Abruzzo. Esatto. L'Abruzzo è stato scelto proprio per la sua conformazione geografica del territorio, tant'è vero che in un documento che si ritrova in archivio c'è proprio scritta la motivazione perché di Casoli, infatti c'è scritto perché è isolata dalle vie di comunicazione, si trova in una zona impervia e quindi difficile da raggiungere, difficile anche diciamo per chi dovrà decidere lì diciamo scappare in qualche modo. Quindi l'Abruzzo si presentava e si presenta ancora oggi un territorio abbastanza complesso, abbastanza difficoltoso in alcune condizioni anche meteorologiche, e quindi l'Abruzzo ha in realtà quasi la maggior parte dei campi sparsi nelle tre province, nelle quattro province, però non dimentichiamo che bisogna, io vorrei anche un po' spiegare che cosa si intende per campo di concentramento. Esatto, è quello che ti volevo infatti chiedere, perché in questa ipertrofia di memoria intorno al 27 gennaio noi chiaramente pensiamo alla Germania, pensiamo ad Auschwitz, e pensiamo a tutta una serie di questioni come lo sterminio, le camere a gas. Invece, che cosa intendi? Allora, noi dobbiamo proprio liberarci da questo immaginario collettivo condiviso, dovuto anche appunto a un uso pubblico e certe volte strumentale di quello che si fa, del concetto di Lager, no? Del Lager National Socialista, che viene assunto come un sinonimo universale della parola, o meglio dell'espressione, del campo di concentramento. Mm-hmm. Ma in realtà il campo di concentramento non è soltanto il Lager nazista, quindi il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz in questo caso, però il campo di concentramento poteva essere anche per quanto riguarda il regime fascista un edificio, una scuola, un edificio abbandonato, oppure delle tendopoli. Cioè la parola campo in questo senso significa proprio un luogo all'interno del quale internare delle persone. Non necessariamente i campi di concentramento fascisti avevano il filo spinato, quindi proprio la mancanza di questi elementi archetipici del Lager hanno fatto anche sì che se ne dimenticasse la loro memoria e anche il loro approfondimento storiografico. Abbiamo avuto anche dei campi di concentramento fascisti col filo spinato, basti pensare al più grande campo che era in Calabria, Ferramonti di Tarsia, che si chiama appunto Ferramonti, era un campo molto grande, e lì era anche costruito con delle baracche del filo spinato. Però il caso, per esempio, di cui mi sono occupato io, di Casoli, non abbiamo questi elementi. Si tratta di tre edifici, un edificio che era di proprietà dell'allora comune, dell'ex municipio, il Palazzo Tilli, le cantine del Palazzo Tilli, e una sua dependance che era sempre di proprietà di questo avvocato Vincenzo Tilli, che era appunto il proprietario di questo palazzo. Senti, e nei locali di questi tre, okay, questi locali sono stati appunto internate delle persone. Ecco, diamoci delle date per ascoltatori e ascoltatrici. Noi siamo nel giugno 40, quindi l'Italia è appena entrata in guerra. Allo scoppio della guerra, inizia questa. Innanzitutto c'è una fase preliminare di ricerca dei luoghi dove allestire questi campi. Cioè, il Ministero dell'Interno e la Divisione di Pubblica Sicurezza manda in giro per l'Italia degli ispettori, in modo particolare 5 ispettori, che dovevano in qualche modo riferire quali luoghi, quali località, quali comuni potevano essere idonei per poter allestire questi cosiddetti campi di concentramento fascisti. Okay. Allo scoppio della guerra, mm-hmm, inizia appunto questa fase organizzativa di allestire, di inviare gli internati, queste categorie che il regime perseguitava, e ora spiegheremo anche quali sono le categorie che il regime ha perseguitato e ha internato, in questi locali, in questi edifici e così via dicendo. Mi ha colpito molto nel libro, che rispetto a questa cosa, che c'è una circolare, no, del Ministero dell'Interno che dice devono essere istituiti dei campi di concentramento, e nella fonte che tu usi si chiamano proprio così, no? Sì, allora tutti i campi che noi, tutti i documenti che abbiamo in relazione appunto a questo sistema, che è il sistema dell'internamento civile fascista, tutti questi luoghi vengono chiamati campi di concentramento, perché i campi di concentramento fascisti sono questi, sono esattamente questi, sono degli spazi dove appunto internare le categorie. Ecco, che il regime definiva pericolose per il proprio Stato. Ecco, mi viene in mente una cosa. Sovversivi, no? Quali sono queste categorie? le categorie che il regime perseguitava e in qualche modo ha internato, anche abusando un po' della situazione bellica. Infatti poi possiamo dire che ci sono anche un po' dei paradossi. Una delle categorie che più colpite è stata quella degli cosiddetti ebrei stranieri. Erano degli ebrei con una cittadinanza non italiana che si ritrovavano appunto in Italia a vivere con un permesso di soggiorno, molti dei quali erano scappati anche dagli stati in cui stavano attuando appunto le persecuzioni razziali, come la Germania, oppure dalla Polonia, oppure dalla Russia, sono venuti in Italia a cercare una sorta di sicurezza. Certo. E poi questi ci furono praticamente delle circolari che fece sì che non fosse più possibile a tutti quelli nati, a tutti quelli arrivati dopo il 1919, sì, non potessero più rinnovare il permesso di soggiorno e dovevano in qualche modo emigrare, però naturalmente in quel momento era molto difficile ottenere dei visti di emigrazione. Allora inizia una forma di internamento che possiamo definire un vero e proprio internamento razziale, perché vengono internate le persone civili, quindi parliamo di civili, in quanto ebrei. Ok, quindi a Casoli ci sono ebrei stranieri? Esattamente, il campo di Casoli è stato proprio, come dire, aperto per mandarvi un gruppo di ebrei stranieri. Il primo gruppo arriverà a Casoli il 9 luglio del 40 da Trieste, e si tratta di 51 ebrei stranieri appunto, che vivevano in qualche modo a Trieste, e furono arrestati, perché ci fu un ordine di arresto dal capo della polizia Astoro Bocchini il 15 giugno del 40, e furono arrestati tutti, trattati come dei veri e propri criminali, quindi rinchiusi nelle carceri per giorni che variavano da 2-3 fino a 2 settimane, in attesa di conoscere la loro località, dove appunto c'era questo cosiddetto campo di concentramento. Quindi vedete, le persone che erano dei civili, che fino a quel momento avevano una vita sociale, erano molto integrati nelle città dove risiedevano, avevano anche appunto una buona reputazione anche sociale, si ritrovavano così all'improvviso ad essere trattati come dei veri e propri criminali, tant'è vero che vengono condotti nelle carceri, vengono proprio prelevati, portati nelle carceri, vengono raccolti i loro dati personali e le loro anche i connotati fisici. Quindi abbiamo negli archivi delle carceri, possiamo ritrovare, io ho ritrovato addirittura anche appunto questi fogli di arresto, dove ci sono le impronte digitali di queste persone. Quindi vengono trattati come veri e propri criminali, e poi ecco, arriverà la lettera del ministero che decide dove mandare questi gruppi. A caso li fu mandato questo gruppo di ebrei di Trieste, possiamo definire, perché erano tutti triestini in qualche modo. Per esempio, infatti, cioè, ci domandiamo, mi domandavo qual è la vita quotidiana di questi ebrei stranieri. Ho trovato sempre nel tuo libro una prescrizione, un documento che si chiama Prescrizioni. Ti leggo qualcosa a caso, poi commenti. Che cosa non si può fare? Non si può uscire dal campo. Bisogna rispondere a 3 appelli giornalieri: serbare una buona condotta, non tenere il proprio passaporto, non leggere, questo mi faceva particolarmente, non leggere né detenere che giornali, opuscoli e libri italiani autorizzati, non spedire né ricevere corrispondenze, né occuparsi di propaganda politica, eccetera, eccetera. Perché tu hai intitolato, ritorniamo, il tuo libro L'ozio coatto? Perché loro non potevano fare niente, perché? Esattamente, allora innanzitutto dobbiamo dire che quella circolare, queste prescrizioni che tu hai letto sono la circolare, vengono dalla circolare che appunto fu mandata a tutti i prefetti e a tutti i direttori dei campi, però non sempre fu applicata alla lettera, in alcuni casi sì, in alcuni casi no, perché molto dipendeva anche dalla discrezione dei vari podestà che in questi contesti piccoli erano anche i direttori politici del campo. Quindi diciamo che quello è in linea di massima il regolamento, che poi veniva adattato nei vari contesti. Il fatto è che a Casoli ci sono stati 2 gruppi di internati. C'è stato il primo gruppo, che è quello degli ebrei stranieri, che va dal 40 al 42, e un secondo gruppo di internati politici ex Jugoslavia, maggioranza slovena e croata, che arriveranno a Casoli dal campo di Corropoli, un altro campo sempre abruzzese, in provincia di Teramo, dal 42 fino a tutto il 43-44. E le condizioni di vita sono completamente diverse. Mentre gli ebrei stranieri diciamo, gli era stata concessa una sorta di libertà di spostarsi all'interno del paese, anche di avere contatti con la cittadinanza, anche invitati a spendere i loro averi, chi ce li aveva, nelle locali trattorie, nei negozi, anche per prendere per ricambi, biancheria, ma anche per usufruire di servizi. E questo perché era una forma di in qualche modo di sfruttare economicamente questi internati in quel momento per far girare un po' l'economia locale. E invece quando arriveranno gli slavi, gli ex jugoslavi che furono deportati, tutti i civili che furono deportati proprio dalle terre di occupazione militare italiana, non ci dimentichiamo che l'Italia insieme alla Germania nazionalsocialista invaderà la Jugoslavia nell'aprile del 1941 e quindi inizierà una deportazione di massa di tantissimi civili, tra cui quelli che arrivarono prima a Corropoli e poi a Casoli, arrivano in condizioni veramente miserabili. E loro sono, scusami, categoria detenuti politici, internati politici. Pericolosi nelle contingenze belliche, ma in realtà se andiamo a leggere i cosiddetti provvedimenti di internamento ci rendiamo conto che erano contadini, che erano, addirittura abbiamo delle personalità importantissime del mondo della cultura slovena come un pittore, Ljubo Ravnikar, abbiamo un medico, Petar Pšaj, sempre sloveno, che addirittura oggi gli è intitolato l'ospedale di Lubiana, l'ospedale clinico di Lubiana, il più grande ospedale della città e della capitale, quindi personaggi molto importanti che in quel contesto vengono considerati dei pericolosi soltanto perché c'è appunto questa invasione militare e questo progetto anche di deportazione appunto dei civili. Però, come dicevo, le due categorie hanno avuto due vite diverse nel campo. Gli ebrei, diciamo, sono stati in qualche modo, hanno avuto una vita più leggera, mentre gli slavi sono stati, insomma, hanno avuto delle condizioni più ristrette. Anche dalle lettere che noi abbiamo lì in archivio si possono leggere, ci sono persone che scrivono, fanno richiesta di indumenti, proprio di mutande, di pantaloni, sono qui internato da 12 mesi con gli stessi indumenti della mia cattura, vi prego di darmi qualcosa, quindi per situazioni abbastanza drammatiche. E tra l'altro, come hai già detto, l'ozio coatto, io l'ho preso da una lettera di questi internati, da delle lettere. Questi internati ex jugoslavi hanno scritto sempre, ripetutamente, delle lettere al ministero chiedendo di essere trasferiti, chiedendo di ricongiungersi con le loro famiglie, e a un certo punto usciva sempre questa frase: non posso più sopportare l'ozio coatto del campo di concentramento. E secondo me questa definizione è un po' quello che potrebbe essere anche, o potrebbe valere per anche gli altri casi, degli altri contesti di campi di concentramento fascisti, perché in realtà il non fare nulla, il non poter neanche lavorare, la cosa che mi ha colpito è questa richiesta di lavorare, perché noi sappiamo che nei vari regimi il lavoro ha giocato un ruolo importante, sia di sfruttamento bellico, sia come forma di distruzione dell'individuo, sia come forma anche di abuso, di violenza sugli individui. Basti pensare alla cava di Mauthausen, no? Dove c'era questo lavoro che non serviva a niente, non portava a nulla, però serviva per ammazzare, per distruggere l'individuo. Noi vediamo che qui la distruzione psicologica arriva proprio nel vietare qualunque tipo di attività, qualunque tipo di attività lavorativa. Molti internati implorano di lavorare perché abbiamo dei lavoratori, abbiamo dei muratori, dei ciabattini, appunto delle persone che vogliono rendersi utili anche all'interno della comunità del campo. Senti Giuseppe, scusi, dobbiamo avviarci neanche lentamente, velocemente verso la fine. Ti chiedo l'ultima cosa, brevissimamente, com'è finita questa storia? Il campo chiude e poi? Allora, non c'è una chiusura del campo ufficiale perché c'è la guerra. L'8 settembre del 43 naturalmente succede quello che succede, che tutti sappiamo, e quindi non c'è più un ministero dell'interno che possa mantenere questi campi aperti. Arriveranno delle circolari sparse. In Abruzzo arriverà, o meglio nella provincia di Chieti arriverà una circolare del 19 dicembre del 43 che dice appunto di lasciare liberi tutti questi internati che erano dei campi. Però in realtà non è così, alcuni riuscirono a scappare e a ripercorrere, anzi a ripercorrere, arrivare a ritornare nel loro paese, altri si unirono con la resistenza nostra locale, moltissimi internati ex jugoslavi hanno dato un apporto importantissimo. Ecco, questa sarebbe anche un'altra storia interessante. Quindi l'apporto che hanno dato è stato veramente grande. Anche questo medico Peter Shah è stato, appunto, era un medico internato a caso che ripercorre e morirà in battaglia contro i tedeschi nel 44, oggi un eroe nazionale in Slovenia, è un partigiano. Quindi sono questi delle storie che vanno riscoperte, insomma. Certo, ancora... poi nel 44 chiude definitivamente nel 44, perché non poi abbiamo una data di chiusura. Sappiamo che è da un documento che nel 44, nel 2 luglio 44 il campo non esisteva più, era chiuso, però non c'è una data ufficiale. Una cosa che bisogna dire però è degli ebrei. Gli ebrei stranieri passati a caso sono in totale sono passati 108 ebrei. Di questi 108, 10 sono stati poi arrestati successivamente dopo l'8 settembre dai tedeschi e sono stati deportati ad Auschwitz e troveranno lì la morte. Quindi come dire, alla fine è vero che i campi fascisti paragonati a tutti paragonati ai lager nazionalsocialisti diventano quasi banali, perché non abbiamo appunto questo ordine del terrore che troviamo nel lager. Però non ci dimentichiamo che se da una parte i campi fascisti hanno in qualche modo alleviato o hanno anche potuto salvare qualche vita, nell'altra parte nel dopo 8 settembre 43 è diventata l'anticamera dello sterminio, perché le liste dei nomi erano state consegnate appunto alla Gestapo, che requisiva, che appunto rastrellava gli ebrei presenti anche in Abruzzo e appunto li mandava nei centri di raccolta di fossoli Bagnoaripoli o Milano, e poi li deportava nei campi di sterminio della Polonia occupata. Quindi voglio dire, insomma, una responsabilità anche secondo me civile quella di riscoprire questa memoria negata in qualche modo, dimenticata, rimasta nell'oblio, e ricostruire le biografie complete di queste persone. Di queste persone. Che per noi sono solo dei numeri, certe volte abbiamo sempre questa espressione, gli internati in oggetto, esatto. Ma in realtà andiamo a vedere che sono delle vite in qualche modo si sono appunto spezzate, certo, separate dagli affetti, dai loro cari, dalle famiglie, dagli amici, dal lavoro e via dicendo. Niente di più attuale. Niente di più attuale. Senti Giuseppe, noi ci dobbiamo salutare. Vi ricordo il libro di Giuseppe Lorentini, che è, anzi aiutami, è la ricerca che tu hai fatto negli archivi del Comune di Casoli. Esattamente, storia del comunicato. Io vorrei dire a chi ha voglia di veramente confrontarsi con questo tema di visitare il sito campocasoli.org, perché nel sito possono essere appunto consultati tutti i fascicoli personali degli internati, i fascicoli originali degli internati passati per il campo di Casoli, e quindi si può avere anche un'idea della mole di documentazione che appunto è conservata nell'archivio storico del Comune di Casoli. È un caso molto particolare nel panorama italiano ed è per questo che ha permesso anche di approfondire in maniera minuziosa la ricerca e la storia di questo campo. Grazie per questo lavoro, grazie mille. Grazie a voi. Grazie ancora a Giuseppe Lorentini che ci ha raccontato, purtroppo il tempo era pochissimo a nostra disposizione, ma vi invitiamo a recuperare il libro e ci ha raccontato questa storia poco raccontata appunto. E per il Giorno della Memoria ci sono tantissime iniziative in città. Una novità di quest'anno è che sono state messe delle pietre d'inciampo in giro per la città dal comune in questo progetto di questo artista, e vi invitiamo a guardare in basso e vedere dove sono queste pietre d'inciampo. Un'altra cosa che vi volevamo segnalare è la mostra che si chiama Porraimos, lo sterminio dei Rom e dei Sinti, che è a cura del Centro Studi per la Scuola Pubblica nel quartiere Sabena, in via Faenza, numero 4, dal 27 gennaio, quindi dopodomani, al 3 febbraio. La presentazione della mostra è martedì 28 alle 17.30. Con questo io vi saluto e ci sentiamo la settimana prossima, sempre su Radio Città Fucico, sempre su Vallun. Ciao!